quando è finito, è andato via quel regime, allora noi abbiamo pensato di fare una cosa per il beneficio del professore, del docente, dell'università. Prima era dei docenti, di professori di tutte le università, poi abbiamo detto non è possibile le comunicazioni, non è possibile di fare tutta questa cosa tra tutte le università, allora soltanto l'università di Baghdad che noi apparteniamo. I problemi sono delle materie che mancano, le materie che sono già distrutte o derubate, i computer per esempio, l'internet che ci manca dappertutto, quindi mancano tutti questi strumenti che sono stati distrutti, le librerie, specialmente le biblioteche che sono stati distrutti, anche le librerie che sono state bruciate, come quella dell'Accademia di Belle Arti che è stata bruciata interamente. Questo è un problema molto molto importante, perché sa la cultura come viene senza libri, senza queste cose. C'è un gran bisogno di forni, per esempio per le ceramiche, poi l'elettricità che ci manca, questo è un guaio. Ce la danno 2 ore, 3 ore, questo non funziona con la ceramica. Quindi noi da qualche mese parliamo della biblioteca che sono bruciate o derubate. La biblioteca dell'Accademia è stata interamente distrutta, è bruciata. Quindi noi quando chiediamo i libri o ogni cosa che serve per l'educazione, che serve per la sapienza, non pensiamo di vergognarci, perché anche gli altri hanno preso la sapienza di noi, tempi furono. L'importante adesso è di raccogliere libri, dischi, come si chiamano, CD, qualsiasi cosa che può costruire questa biblioteca.